aiutare, che se le persone, se uno non vuole fare, non lo fa, se lo fa è perché magari lo sa bene con l'altro. Ma già, guarda, io ti posso garantire, conoscevo, lo conosco perfettamente, il marito è un pezzo di bar, vigile a fuoco, ragazzo veramente in gamba, veramente in gamba, perché lui faceva i turni, io ho già Luca, da casa di mezzo di guattro, di comandante, che avevo compiuto su portare, lascia perdere già. La carne è debole, capito? Anche quello giusto, se uno non lo vuole fare non lo fa. A me, io entravo, sono entrato per un po' di anni, poi ce l'ho sempre, ogni tanto entro, ascolto musica, ma non dopo confidenza a nessuno, non me la fatto da nessuno. Su Facebook sono arrivato a avere anche 1000 contatti, poi un giorno ho fatto così, clic, cancella, boom, tutti fuori dai coglioni. E non ci sono più entrati, come una fettina, capito? Quindi se uno la cosa vuole fare, la stessa cosa, mia figlia, non c'è più entrata, perché il ragazzo non vuole, e quindi la cancella da tutto e non è la fettina di Facebook. Perciò, se una cosa si fa e buono. Evidentemente a lei le piaceva il grongo spagnolo, avanti capri due. Io così mi sono messo così, però sei delle date che mi facevo, le contate che scrivevo nella pagina, hai capito? Poi gli altri guardavano e poi me ne ridevo io, ma quello ma come no, qualche amico fisarmonicista c'era, qualche amica l'ho perso, fisarmonicista di continente, delle orchestre, però poi ci ho mandato il troppo il paese, devo stare, non mi interessa. Bene, la signora mi ha chiamato a scendere. Vuol dire che è pronto. Per il momento vi saluto e Gianni, Luca e anche gli amici ascolta e anche là. Ti devo dire che ho sentito a Marco Scorpio l'altra sera. Sì, sì, sì. Ci siamo sentiti anche poco fa. Va bene. Ciao Gianni, allora buona serata, buon tutto e ci riascoltiamo alle prossime. Fammi bene. Avanti Luca. Proprio non riprendo. Sono in zona ricca. Sono su una frequenza, hai capito, della 26 in SSBT, con un'altra persona che tu sai, che c'è il mio nome, hai capito? Ok, hai capito di che sto parlando, ok? Ok, riprendete, ciao a tutti. Sì, sì, non c'è problema, ma conta sempre lì nel canale 20 a fare delle prove. Accendere un po' le radio, quelle vecchie, quindi ci sentiamo spesso, non c'è problema, non c'è niente da nascondere, tutto ok. Cos'hai detto? Sono arrivato, un secondo solo, Via, positivo, Luca. Ehi, sono qua. No, guarda, la parte della porta a fuoco, cazzo, ho un fiato di gas, di sappartenta, avvicinante. Mi posso punire un bimbo. sporto a fare, quanto che ha coperto quella una bella macchina. Io ricordo, quella con un'amica di l'aria, si era preso la patente, era sempre ferma, in garage in via Pascoli, quindi doveva essere fatto il parcheggio. Ah, qui faceva di roba, veniva un po'. Dice, ma che ho ordinato la macchina? Mamma mia! Il fattivo che mi dà, cazzo, se ne viene qua col telefono a rompere le palle. Siamo una mossa qua, ui. Però aspettiamo, 60 anni che ci danno la... Aspettiamo, 60 anni per tirare la minima, ma fa calentare. Cioè, lavoro, dobbiamo lavorare, non è nero, lavorare assicurati, così, pur domani, vabbè, qualcosa. Gianni, cos'è che stavi dicendo dopo 5 anni? Dopo il 50esimo anno di età, si dà dopo 5 anni, rinnovo la patente. Allora 5 anni, la mia non è 10, sì, hai ragione, 5 anni, nel mercato di scale, novembre 2016, mentre quella della patente radio è luglio 2015, vabbè. C'è l'aglio tutto segnato, ma come si è bucinato. Ok, già va bene. Oh, a meno che abbiano cambiato le cose adesso, perché io so che è così. Beh, sono già andato, sarà così. Io intanto 2016 mi scade, quindi 2016 vado da rinnovo, poi mi serve le luci. Ma adesso mi stava venendo un dubbio, perché c'è proprio una scadenza, però non mi ricordo qual era. Vabbè. Comunque non è nella patente della radio, nella patente della macchina. Non so, altri documenti importanti non ne ho, quindi non... Vabbè. Cioè, c'è l'agenda, controllo a vedere. Siamo raggiunti. Va bene. Dove sei già? Sì, salendo qua vicino al 4 novembre, per andare con chi? Per andare? Al vecchio mattatoio lì. Un vecchio mattatoio. Ah, devi salire la zona là, forse mi gira il fuoco. E lì sono andato, sto passando io. Sono lì che c'è un via davanti adesso. Oh, finito, Prova aspettando, e passa il dai. Per aprire un cancello, prova ci metti. E anche controllami chi è, chi non è. Capito? Quindi... Non mi vado. No, io quando mi... Quando vado a cani, mi ero impianto lo stesso. Sono andato a Benisciugno, a vedere le telecamere. Allora, mi sono fatto dare il telecomando al dirigente, perché una volta me ne sono andato, dovevo portare come fazione importante, me ne sono andato. Poi mi ha chiamato, mi andavo già a Santa Maria Colinas. No, me la porti con la documentazione? Sì, quando aprite il cancello, adesso ve la porto domani. 10 mila al gulo, 2 fontana verina. Allora il dirigente mi ha dato il telecomando, c'era in macchina, quando vado lì, apro io, non ho visita la comunità nessuno. Che gioco contro iaio? Cinesi, ti va bene al bar, tu vai, non trovi a nessuno, poi. Deve fare schifo già usare, no? Non ti funziona. Ci ha tirato la contata un po', io. Cosa pensi che abbiamo cambiato? Tu vai la mattina alle 7, io a volte capita che devo portare i campionamenti quando esco dal lavoro, alle 2, 2 e mezza, quindi passo lì, poi faccio il 131 e me ne salgo a casa. A volte sono stanco, io riporto la mattina alle 7 prima di partire. Che ci sia una mattina a casa dove c'è il conduttore puntuale, meno male che ripeto, io ho il telecomando. Quindi apro il cancello, ho le chiavi di laboratorio, le metto lì, firmo e me ne vado. Capito? Non sono tutti che lo possono fare, ma ogni volta che io vado alle 7 non c'è mai nessuno. Gli NVIDIA si video alle 7, capito? Alle 7 per non fare il primo controllo. Non come mai nessuno, sono tutte per colazione. Così prima quando andavo a trovare Antonio la notte, io molte volte quando facevo il notturno andavo a fare compagnia. Me l'ha detto che andavi, ma adesso un impianto nuovo, capito, quello per andare più non c'è più, ho dismesso, ma sono fatto nuovo dall'altra parte, enorme, grandissimo, è ancora bicio, è ancora più quadro, capito, quindi no, è un bel casino, vabbè. E allora, fermo un minuto, a me non interessa niente, non è che vado a controllare nessuno, ma molte volte ho necessità di ritirare qualcosa e me ne vado, poi tocca riandare, come è successo l'altro giorno, che dovevo caricarmi la roba di mannata, che arriva tutto lì il materiale, da poi lo smistano, mi chiamano e mi danno la roba che è del mio lotto, della mia zona, quindi ho dovuto caricare tutti i lotti della carta, lo shampoo, ho ordinato il mociovileda per pulire i bagni, i guantini, i detersivi, insomma tutta la roba che serve, no? Sono andato a caricare una, non c'è nessuno, quindi ho dovuto lasciare lì e riandare l'indomani a prenderla quando sono uscito dal lavoro, proprio perché c'è questo problema che ancora non ho capito, che si entra alle 7 e si esce alle 1:30, non si entra alle 9 e si esce alle 1, non peggio, eh? Sì, oh, fanno quello che vogliono, io l'ho visto come funzionava, no, che siamo usciti a fare il giro nei vascoli con altri roba di zarroni, mamma mia! È casino! C'ho fame, la mangio a buco. Io adesso non ho fame, non ho sette mesi, mangio mangiato mezza baguette con la salame, la fontina, io adesso non ho fame. Dopo più tardi, quando ho mangiato un piattone di fave, con i cavoletti, i fianchetti, i cavoli verdi, poi ci ha messo il salsiccione in mezzo, la pancetta, insomma, sono ancora incubi, quindi non so se c'è una stanotte, non so, ma se vediamo, ma è dopo, mangio una frutta o qualcosa, vediamo, ma non mangio una mania, e già, e quello è il combo, il depuratore è un uomo di soli, però ti posso dire, lì hanno lasciato andare un po' le cose, perché nei depuratori che gestisco io, che controllo io, non ho messo lì, perché ogni settimana faccio passare quello che fa la disinfettazione, mette tutte le bottine, toglie le vecchie, mette le bottine e molti li troviamo morti, ma tanto anche grandi. Quindi se tu pulisci bene e metti da mangiare, non li vedi in giro, rimangono intanati, escono la notte, mangiano e poi muoiono caput. Invece lì non solo di mangiarsi di dire a fare impianto di giorni, se ne mangiato vita che rigavi, cavi, di tutto si mangiavano. L'altro giorno è venuto l'impianto per la fissazione da noi, e il mio principale ha detto, siete venuti a ingrassarli. Ho trovato uno l'altro giorno molto vicino alla porta dell'ufficio a Santa Maria Cluina, sbello il braccio, ancora muovi aranchia, gli fa, cos'è, non ti è piaciuto il tanguetto? Io lo metto anche dentro l'ufficio, perché ci sono dei passaggi, dei cavi rotti, quindi loro entrano dentro e poi escono dal quadro elettrico, capito? Di camminare il giorno, manco lo spillo cammina. Perciò poi entro, trovo le bustine, perché non c'è altro, è tutto pulito e ordinato, trovano le bustine per terra, mangiano, poi se ne escono, perché loro come mangiano devono andare a bere, quindi vanno a trovare acqua, perché se no affogano, non ce la fanno a trovare l'acqua e allora cominciano a rimanere attaccati all'aria. Ma è a lunga durata questa cosa? Non è che muoiono subito, gli fa scoppiare lo stomaco, me l'ha spiegato quello della deratizzazione. Ma ha detto che non è che muoiono subito. Sì, mi discorsi. I tuffi, se no, sì. Muoiono e non mangiano, invece se ne vanno tranquilli, dopo un paio di ore di fa fatto scegliere. Ma insomma, è giunto la di magna ed è divabitente di Zurich a pazza all'aria. Rientrato sono, c'era un freddo che la metà bastava. Non era da rimanere, un'umidità micidiale. Rispetto a stamattina, proprio nel giro di poche ore, dalle 4 alle 6, si è cambiata radicalmente la giornata. Ciao Gianni, ciao Claudio, non so che ci sia ancora in rotta, a parte di Zurich. A pescare se sei andato. No, è la Platamona che dovevo mettere a posto una cosa, ma un freddo, me ne sono scappato dopo 2 minuti. Lì devo arrivarci più o meno di umidità. Decisamente, Claudio, dammi questo controllo, benedetto, che tu che ne sei due strisce, come sto arrivando adesso? Appunto, tra girata da 4 ore, il tuo segnale adesso, 9, sì, tra il 40 e il 50, in mezzo, il tuo segnale. Ma adesso l'antenna l'ho alzata di 10 metri, no, di sì, 10 metri esatti. Un po' forte, sei in mezzo, cioè scusa, tra il 50 e il 60, non tra il 40 e il 50, tra il 50 e il 60, in mezzo sei, capito, in mezzo, praticamente sei 9,50, abbondante. Alla grande, così 80. Ottima radio, ottima emissione. Va bene, sta arrivando, quanto arriva Roberto Quadrato? Lo stesso segnale di Roberto Quadrato. Ma chi è che arriva più forte di solito? Roberto? No, più o meno siete lì. Tu, Roberto e Fabrizio, più o meno siete lì. Poi bisogna vedere la potenza alta, Roberto sicuramente. Perché da fastidio anche Antonello quando solleva, quindi quello più alto è Antonello adesso, 60. Però tu, Fabrizio e Roberto, siete in mezzo tra il 50 e il 60. Guarda, stavo guardando proprio stamattina quando ero sulla torretta, sul torrino dell'ascensore, proprio vedo in pieno le due torri, quindi siamo a visione ottica adesso, assolutamente. Lo so. Siamo a visione ottica, sì, adesso fa un po', vedrai spuntare la direttiva, perché non inizia il tempo buono, iniziamo a sollevare il carrello, che è basso, adesso è 3 metri, ci sono da 3-4 metri a sollevare, non lo sto tenendo basso perché voglio stare tranquillo, però l'estate lo metto al massimo, è un palo ascensore, no? con la manovella. Si tira su, un pochino a tornichetti, lo tiro su e poi ritiro i tornichetti. Quindi si vedrà, supera tranquillamente tutto bene il terrato, quindi si vedono, anche le direttive. Il manto va bene, non c'è, dall'altra parte è poggiata, diciamo quasi in terra. Arrivato si è più. Questo momento. Sotto casa tua, sì. Sono geniale, 9,15, sì. La direttiva è una cosa allucinante. Da Guadagni a Bogo. E ho trovato la posizione, perché Roma è a nord-ovest, prima la 9 è a nord-ovest, leggermente tra Sassari e Porto-Torres in mezzo, quindi arrivi un po' forte. Va bene, vuoi riprendere o riprendere a casa? No, vado a casa, mangio e poi riprendo, se c'è qualcuno. No, sono proprio in cortile, Claudio, sono dietro i palazzi, tra quelli di Via Baldelli e quelli nostri, capito? Sono in mezzo ai palazzi, ce l'ho davanti, a fianco, con l'altra parte di Terolai, e insomma, sono circondati. Un bel forte sta arrivando già, non c'è un problema, fortissimo, alla grande, va bene, dai. Allora vai a mangiare, ci si sente dopo, avanti Lucariello, come salutare di Antonio, non fai frega niente. Sì, certo, no, ho messo un compito da vendere qua, a proposito ti interessa un PC, lo vuoi fare, un portatile, stavo operativo Windows 7, tutto pulito, pulito, mattato, tiro la borsa, tiro tutto, ce lo vuoi? Ho cambiato la RAM, poi l'ho su Windows 7, quello è un buon po'. L'unica cosa di rimasta è la webcam, è nuovo, tutto bene. A fare quanto ne vuoi? 150. Funziona bene, non è un missile, è anche un po' vecchiotto, non è di tua generazione, però funziona benissimo. Vabbè, ho provato di tutto. Se qualcuno interessa, io ce l'avrei lavorato di più, no? Ma vi vedete, sono i miei, praticamente dovrei accettare il padrone e 50 euro sono i soldi che devo recuperare. Ma non so se hai visto sui telegiornali di pochi qualche tempo fa, in breve hanno inventato questo programmatore italiano insieme a uno israeliano, ha inventato questo programma per cui tu lo inserisci con una chiavetta all'interno di qualsiasi PC che abbia una porta USB e ti fa diventare un qualsiasi computer, anche vecchio, di nuova generazione con questo programma qua, quindi velocissimo, che elabora qualsiasi tipo di programma e te lo trasforma in un computer recente tramite software. Ti stavo ascoltando tu, vabbè, comunque lo messo a posto. Va bene, la battaglia, diciamo. Il mio va bene per navigare, per scaricare, è più potente, c'ha più RAM, c'ha più hard disk. A proposito di hard disk, adesso io uno di questi giorni ne ho 500 giga, ne ho un po' sotto, così ho più memoria, questo non c'è sotto la 320, ma ce ne ho spazio a voglia, ma vediamo un po', dai, e se qualcuno mi interessa, di me lo posso dare, e solo di me non ci vuole anche il padrone che me l'ha dato, che l'ha fermo, che io l'ho messo a posto. Ma la tua fidanzata cosa gli hai regalato oggi? Il gambo, la rosa si è rotta. Ciao, buona serata, ciao Lu, mi ho ascoltato, ciao a te. Ciao Lu. bene. No, troppo alto, no, confermi, però lo sento bene. No, io sento perfetto, la verità. Lo sento benissimo, molto forte perché l'avevamo regolata così con la radio, ma bisogna metterli così. Così 80 sta arrivando una bomba, poi c'è una colonia, sta radio, buono. Nuova, c'è una ricezione favolosa. 4.30 la colonna sua è un po' più cupa, questa è un bel chiara, infatti uso un esterno di linea. Questa invece è molto molto chiara, quindi ti ascolto benissimo. Avanti Gianni. Claudio. Ciao, dammi il controllo, per favore. Segnale radio. C'hai un ecco sotto, la radio è buona, segnale 9.30. Ok, va bene, dai. Quando vai in quel ristorante là, salutami a Nina. Nina? Nina è la barista. E qualche volta ci passo, quando sto rientrando dal lavoro, ma prendo un caffè. Va bene, sarà fatto. Mi sembra che già ne ho più rumo col bip. No, ottima modulazione, vabbè. Avanti Massimiliano, fammi sentire la radio. L'ho abbassata un po', va. Ciao Antonio, buonasera anche a te. Qua arrivi Radio 5, Santiago 9. Adesso va bene, Massimiliano. Ok, guarda adesso 1 e 3, ho attaccato un'altra cosa, cosa è cambiato? Non è niente, non è cambiato niente. Prima di che esce più finocchio. Ah, grazie, che non ho purtroppo, purtroppo deve arrivare anche le fotografie, altro il finocchio, so. Ok, vabbè, riprendi un secondo, dai. Bianco, sto facendo una cosa. Guarda adesso, va bene così? A me andava bene anche prima Massimiliano, evidentemente Luca rimbomba troppo nella sua radio. A me andava bene anche prima, non c'era nessun problema, capito? E va bene, ma se mi ascolta meglio così lo lasciamo così. Capito Luca Riera? Foto, roba di 2-3 euro li passava per foto, ero tutto formato, tutto lavorando, non c'ho voce di parlare della merda, mio figlio, ma dimmelo, no, ma fai quale, dimmelo che non ne hai soldi, ma non mi fa aspettare, ti ho fatto un bel nascondo, mi dice che ruba lo culo, ma dopo 3-4 mesi, c'ho 5 mesi pure. Combinando da casa su quello su come di fame faccio un po'. la pizza. Mi sa a me. Quale volta sono adesso? Andiamo di fortissimo. Come quasi 9.30, sì. Cioè, va bene, cioè, va bene. Va bene, mi ascolti con le orecchie. A voglia. Vabbè, mi ha funzionato ancora tutto, va. A voglia che funziona tutto. C'è un baracchino, no. Ma quale stai dicendo tu, quello di Lucino? Questo è un baracchino, ma che funzioni, una quarantina di euro così, capito? No, un baracchino cazzo, con i piani di buccia 50 euro, mi sarei un po' esagerato. Mica l'ho detto io, pezzo mio, il discorso è quello, sì, l'ha detto lui. Ma ce la faccio male, detto un baracchino, ho detto 50 euro, facciamo dei film, e tu dove c'è che l'hai bruciato? No, accende solo gli spray dei calari, il resto non accende, è da controllare, hai capito? Il discorso è quello lì, se volevo un baracchino, ho detto un altro, ho detto c'è un altro, detto. Mi dà un apparecchio come quello che c'ha San Medio, uguale identico, ci vuole solo l'MRF 477, non ci vuole altro. E se lo compro da parte. Ma il discorso è come se avessi un compito con la scheda di bruciata, è a casa di rubia, nessuno, sì, per prezzi. Dunque, la baracchino, 50 euro, ha bruciato, così come no, non se mi vale proprio. Guarda, un borso garantito. Piazza, ne sì, guarda, pezzo di guarda brutto. Cosa vuoi che ti dica? A me, io sono rimasto secco, non mi ha detto, la verità che tu mi hai detto, si è chiamato coso, la verità io sapevo che c'era, cioè si chiamava così su Facebook, e quindi quando mi ha chiamato, ha detto, tu che lo conosci questo? Io pensavo al telefono, mi aveva chiamato, invece quando tu mi hai detto, mica è quello lì, allora gli ho risposto l'altro giorno, capito? Le 40 canali, capito? No, non è 48, è un altro anch'io. Comunque sia, non lo so, e la mettono a posto, non lo, se accende il display dei canali, però non diceva che trasmette, capito? C'è un transistor bruciato che no, io non ne ho, la verità. Adesso bisogna, non sai che tu, la tua vita a trovare un casino, quindi mi sa che conviene, se vuoi avere 10-20 euro va bene, poi magari se ne hai trovato un'altra cosa, lo usa per pizzi, cosa vuoi che dica io? Da lui ne fa uno. Ma anche lui, anche. Vabbè, non lo so, boh. Ci guardate troppo. Adesso faccio un esempio, tu conosci il Typhoon? Vale a meno di 150 euro, quel telefono lì era di Giaguaro, era perché l'ha avuto lui, tu figurati, poi da lui è passato un altro, è passato poi a Franco, Franco è tornato a te, capito, era 281 canali e lui è tuttora, per dire, comunque era un apparecchio che simile al Tornado rimane. Sì, vabbè, ma c'aveva anche Franco il Typhoon, te lo ricordi? Sì, uguale. Allora non è più lui. E vabbè, non ne c'era più, però comunque sia, ci va bene. Non era perché da buttare, come valutazione c'è 50 euro, quello vale lì. Come il Tornado, cioè, il Land Rover, quello che è, vale, quel pezzo lì vale il Typhoon. E vabbè, fa per dire, vedi. Sapore, ma lo vedo, vediamo un po'. Vabbè, watt, mi sa, si può portare anche più alto di watt. Ma se cambia il finale, metti come del presidente Jetson, l'MRF 477, si tira fuori 40 watt con l'apparecchio. Ciao.